Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Cittadini e cittadine, in particolare delle grandi città, ma anche quelle medie, vanno benissimo. Basta buttarsi giù, fra poco sentirete perché. Benvenuti e benvenute a Möbius e ascoltiamo i titoli. Energia. Le grandi città non sono più sprecone della campagna. Il senso della morte negli scimpanzé. Alcuni animali hanno coscienza del fine vita dei loro simili. La voce umana, come curarla, addestrarla e usarla nel migliore dei modi. Il 46% degli americani pensa che la Terra sia nata 10.000 anni fa. Un libro analizza il problema e propone delle soluzioni. Energia elettrica dal fango e dai liquami. E all'origine ci sono sempre i batteri tuttofare. C'è un luogo comune, e esprimendomi in questo modo ho già dato un po' un giudizio sul tema che stiamo affrontando, c'è un luogo comune che sostiene che le città, per la sostenibilità del pianeta, siano un problema e dovremmo diventare tutti molto più campagnoli. Le città sono energivore. Per discutere di questo tema ho ospite in questa trasmissione Guido Martinotti, che saluto subito. Buonasera Martinotti. Buonasera. Docente di sociologia urbana all'Istituto SUM di Firenze, che in questo momento cogliamo al Festival del Libro, alla Fiera del Libro di Torino. In un recente convegno che si è tenuto all'Università Milano Bicocca, lei in un suo intervento iniziale ha sostenuto che questa visione della città come una macchina tremendamente energivora rispetto alla campagna è proprio errata, e anche ha portato dei dati. Insomma, come stanno le cose? Ma le cose sono abbastanza semplici. La città è sicuramente più efficiente della campagna per la semplice ragione che da circa 5.000 anni a questa parte si continuano a costruire città, e una delle ragioni per cui si costruiscono città è che la città, essendo densa, è una macchina molto più efficiente per tutta una serie di quelle che gli economisti chiamano economia di scala, cioè più persone assieme. Ovviamente prendiamo per esempio il riscaldamento di una casa, è chiaro che un condominio con molti appartamenti consuma meno pro capite, ben inteso, di una villetta in cui ogni persona ha 4 o 5 muri esterni. Questa è la cosa più semplice che capita. L'altra cosa evidentissima è che, siccome il grosso dell'inquinamento e del consumo energetico delle città è dovuto al traffico automobilistico, una città molto densa ha molto meno traffico automobilistico pro capite, non c'è bisogno, se uno sta a Manhattan, di usare l'automobile, perché ci sono i mezzi pubblici. Ma se lei sta nel Vermont, per andare a comprare 4 uova deve fare 20 miglia e consumare 2 galloni di benzina. E infatti, a proposito di Vermont, lei proprio fa un confronto, perché ci sono dei dati tra questa regione, questo stato degli Stati Uniti, che è considerato uno dei più avanzati dal punto di vista della qualità dell'ambiente, e New York, e mi pare che ci sia una differenza di consumo di 7-8 volte. Sì, ci sono, sì, per forza, perché evidentemente a New York si consuma molto meno, sia come energia elettrica nelle case per il riscaldamento e per altre cose, sia anche per l'illuminazione, sia come acqua, sia come benzina per la mobilità. Sono i tre valori principali che sono la città. Allora, qual è il problema? Qual è la fonte dell'errore? È che, siccome le città sono molto grandi, se facciamo il consumo totale, è chiaro che Manhattan consuma molto di più di un villaggio del Vermont, questo è evidente. Ma il problema è che i consumi devono essere calcolati pro capite, perché è il pro capite che conta. Sì, se aumenta la popolazione, è chiaro, aumentano i consumi in funzione del pro capite, non in funzione del totale. Senta Martinotti, lei ha sostenuto anche un'altra tesi, e cioè che, per carità, non si tratta di eliminare gli alberi della città, però lei dice non è questo l'aspetto principale per costruire un ambiente vivibile. No, certamente. La città è fatta di pietra, come dice anche Calvino, e deve essere fatta bene con la pietra. Poi, se dentro nel disegno urbano ci sono anche giardini e alberi, ben vengano, ma Il bello della città è il suo essere costruito. Quindi le città belle sono belle perché sono ben costruite, non perché ci mettiamo oltretutto a posteriore degli alberi qua e là, come se mettessimo delle piante sul nostro balcone. È così che si fanno le città. L'idea che un albero serva a ridurre il consumo ecologico, l'inquinamento delle città, è un'idea falsa, perché ogni albero, se lo mettiamo dopo, lo dobbiamo irrigare con l'acqua potabile, lo dobbiamo piantare e costa, lo dobbiamo difendere dalla pipì dei cani e costa, lo dobbiamo irrorare perché è a posto degli insetti, e questo non solo costa, ma contribuisce all'inquinamento. Quindi non è lì che devono stare gli alberi devono stare nelle foreste, e magari combinare dei grossi pezzi di foresta o di verde, semiagricolo, come c'è nel Parco Sud a Milano o come c'è per esempio nel Central Park di Manhattan, lasciando gli alberi lì dove non hanno bisogno, a Central Park non hanno bisogno di essere irrigati, ci pensa il cielo, capisce qual è il punto? Sì, cioè... Invece se lo mettiamo in Piazza del Duomo li dobbiamo irrigare. Lei dice attenzione a non considerare, come dire, un po' lavarsi l'anima con l'idea che appunto mettendo gli alberi abbiamo risolto i problemi della città. Questa esatto. È un'attenzione. Questa è un'ideologia e le ideologie sono sempre sbagliate. Tant'è vero che poi non li mettono perché sono tutte buttate. Anche a New York a un certo punto hanno detto metteremo 1 milione di alberi. L'anno dopo hanno deciso che non aveva senso mettere 1 milione di alberi. Giustamente non li hanno messi. A Milano hanno promesso di mettere, che so io, 90.000, Milano è più piccolo, poi non ne ha messo nemmeno uno. Ed è giusto che sia così. Preoccupiamoci piuttosto dei grandi parchi urbani, quelli sì che sono importanti, ma sono tutta un'altra cosa. Non è mettere gli alberi qua e là dove sottraggono spazio alla popolazione. Le città devono essere fatte per le persone per camminare, quello è il punto. Va bene, tesi provocatoria però densa, insomma, piena di elementi. Grazie Martinotti, buonasera. Arrivederci, grazie a lei. Pochi sono i collegamenti fra l'edilizia urbana e l'allattamento, però a noi non importa. Adesso Chiara Albicocco vi parla delle poppate. Utilizzando un sistema di rilevamento a ultrasuoni, un sistema dal quale si possono ricavare delle immagini interne del corpo umano, quindi una sorta di ecografia sofisticata, e accoppiando a questo dispositivo un'altra apparecchiatura in grado di misurare quanto vuoto si può creare in una bocca quando questa è impegnata nell'aspirare un liquido, un gruppo di ricerca dell'Università dell'Australia Occidentale, precisamente a Crawley, ha studiato il meccanismo della poppata, ovvero che cosa avviene durante l'allattamento. Su questa attività umana le idee non erano ancora molto chiare e del tema se n'è parlato in un recente convegno tenutosi a Venezia. L'incertezza in merito all'allattamento era proprio sul meccanismo della poppata, cioè che cosa fanno i bambini o le bambine quando succhiano il latte. Succhiano come quando noi, ad esempio, con la cannuccia ci beviamo un'aranciata nella lattina? Oppure comprimono il capezzolo generando così una pressione, come si fa con una confezione di plastica, ad esempio di uno shampoo o di un dentifricio? Ecco, scusate gli esempi un po' fuori contesto, ma era per rendere l'idea. Con le apparecchiature utilizzate dai ricercatori e progettate in modo che non arrecassero né danno alle madri né ai lattanti, e parlo al plurale perché è stato esaminato un certo numero di casi, ecco, si è visto che la creazione del vuoto nella bocca dei bambini è il meccanismo di base dell'allattamento. Il campione esaminato, sia di madri che di bambini, è stato scelto con l'intenzione di verificare una serie di problemi che si manifestano nell'allattamento. Per esempio, si è visto che i bambini che fanno fatica a succhiare il latte presentano delle difficoltà nel produrre il vuoto nella loro bocca. Infatti ci sono dei piccoli che presentano il cosiddetto palato molle. È un'anomalia che si manifesta in quel ritardo di sviluppo che si ha, ad esempio, nelle nascite premature. In questo caso c'è proprio un deficit meccanico che rende meno efficiente la creazione del vuoto. Si ritiene, giustamente mi pare, che questa comprensione del meccanismo della poppata sia importante per due aspetti essenziali. Il primo è che la conoscenza sarà utile per pensare a delle tecniche per addestrare ad esempio i piccoli che succhiano debolmente, come quelli col palato molle. E il secondo aspetto è anche quello di confortare le madri, le quali comprensibilmente tendono a colpevolizzarsi se l'allattamento è un pochino problematico. Dunque, infine, il dato che è emerso da questo studio rende conto anche di un altro problema piuttosto frequente. Non sono poche le mamme che si trovano di fronte ad un allattamento piuttosto doloroso. Ecco, anche in questo caso si è scoperto che all'origine ci sono proprio dei bambini dotati di una grande efficienza nel creare il vuoto. E anche in questo caso lo studio può aiutare a trovare delle soluzioni. Orcinus orca è il nome scientifico. Orca e basta è come la si chiama solitamente e spesso la si definisce orca assassina. Ci fu anche un film, molti di voi lo ricorderanno, con questo titolo. Non poche ricerche hanno dimostrato poi che questo cetaceo non è così cattivo come lo si fa passare. Va in cerca di prede come tanti altri. Ho la sensazione che le volpi facciano molti più disastri con le galline nei pollai. Dette queste cose, la notizia è che di Orcinus orca non ce n'è una sola. Si sono analizzati vari esemplari presenti nel mare di Ross, e siamo al Polo Sud, e poi al largo dell'Alaska, e anche un'altra specie che vive sia al nord che al sud, sempre intesi come poli. Fra queste si sono trovate differenze significative in alcune parti del corpo, per esempio negli occhi, che si sono rivelati di dimensione diversa. Ma soprattutto le differenze sono apparse nella alimentazione. Allora, quelle che stanno al polo sud nel mare di Ross mangiano solo pesce. Quelle che stanno al sud come al nord mangiano anche foche. E invece le orche dell'Alaska sono quelle più vivaci dal punto di vista alimentare, perché si mangiano tutti i mammiferi marini e, ebbene sì, si mangiano anche i delfini. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Per il nostro gioco, il nostro quiz, questa sera andiamo a testa in giù. Quando i pipistrelli che dormono a testa in giù, appunto, si addormentano, com'è che non cadono? Perché quando uno si addormenta la sua muscolatura non è più contratta. Avete tre possibilità, come al solito. La prima, hanno delle unghie molto lunghe che funzionano come gancio, ci scriverete unghie. Due, in realtà i pipistrelli dormono come altri animali, con un sonno leggerissimo e quindi per loro non è un problema mantenere attiva la muscolatura, ci scriverete leggero. Terza e ultima possibilità, le articolazioni della gamba possiedono un meccanismo che blocca la gamba stessa, un meccanismo a scatto come certi cavalletti metallici, ci scriverete scatto. Come? Scriverete con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Sotto falso nome, scienziati italiani e ebrei 1938-1945. L'autrice è Raffaella Simini, edizioni Pendragon. In collaborazione con IBS.it. Con i pipistrelli abbiamo finito, ma con gli scimpanzé no. E stiamo per parlarvene affrontando, pensate un po', un tema molto particolare e profondo: la percezione della fine della vita. Ascoltiamo Chiara Albicocco. Continuano a stupirci, sono sempre più uguali a noi, anzi siamo noi che siamo sempre più somiglianti a loro. Sono gli scimpanzé che percepiscono il senso della morte, reagiscono alla morte dei loro conspecifici con sensibilità e si occupano dei loro compagni malati e ne comprendono il decesso. Due recenti studi inglesi, pubblicati entrambi su Current Biology, che è una prestigiosa rivista di biologia, descrivono il comportamento degli scimpanzé di fronte alla morte di alcuni individui del gruppo. Ci spiega questi comportamenti molto particolari la nostra esperta di primati, la professoressa Elisabetta Visalberghi, l'abbiamo già sentita più volte qui a Mebius, dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR. Buonasera professoressa e benvenuta. Buonasera. Ecco, abbiamo detto quindi che le ricerche pubblicate sono due. Io direi di andare con ordine, descrivere, diciamo, proprio la scena che viene descritta in questi articoli e poi passiamo veramente ad analizzare l'importanza di queste ricerche. Dunque, la prima è un gruppo di ricercatori inglesi che ha osservato i comportamenti di un gruppo di scimpanzé in cattività in un parco safari britannico e così durante l'assistenza, diciamo, alla morte di una anziana scimpanzé. Sì, esatto. L'autore principale si chiama Jim Anderson, che è un primatologo, un collega che conosce bene gli scimpanzé, ci ha lavorato per tanti anni e che secondo me fa una descrizione, come del resto anche l'altro articolo, estremamente cauta, estremamente chiara, molto dettagliata e senza esagerazione. C'è un esempio di che cos'è la cultura scientifica migliore, non le sparate per apparire di qua e di là. Ma nel suo caso ha avuto, diciamo, la fortuna di intuire che questo animale stava male, quindi di anche un po' programmare il tipo di osservazioni. Ha fatto una serie di osservazioni prima di questa notte in cui la scimpanzé è morta e ha filmato quello che è capitato in questa occasione. Ecco, e che infatti che cosa hanno osservato, dottoressa? Dunque, diciamo, per riassumere, le cose principali che lui dice che accadono prima della morte di questa femmina è che, per esempio, ci sono delle cose un po' strane rispetto al normale. Gli altri scimpanzé, per esempio, stanno vicina a questo animale e ogni tanto lo toccano come per vedere se è vivo o morto. Un po' come se l'accudissero, no? Negli ultimi momenti. Ci sono anche delle reazioni, per esempio, aggressive da parte dei maschi. Non è facile capire perché il maschio un po' diventa aggressivo e quasi vuole tastare il terreno in maniera un pochino più attiva, un pochino più intrusiva. C'è il fatto che, per esempio, una volta che questa scimpanzé è morta, come ha detto lei, era una scimpanzé di una cinquantina d'anni, quindi vecchiarella, tutti gli altri sono stati vicini, l'hanno osservato, è quello che noi chiameremo una veglia, una veglia funebre. C'è stato il tentativo, per esempio, di pulirgli il corpo, di togliergli della paglia dal corpo. C'è stato, e questo è ancora più impressionante, come una paura di riandare negli stessi posti il giorno dopo, quando il corpo era ormai stato rimosso dai guardiani del safari park. Cioè, per alcuni giorni non si sono proprio avvicinati alla tana, non, diciamo così. Sì, hanno preferito evitare questi posti, cioè non si sono avvicinati o si sono avvicinati molto meno di quanto non facevano prima. Gli altri scimpanzé sono riusciti a percepire il fatto che lei a un certo punto sia morta e quindi sia ovviamente diventata naturalmente immobile? Naturalmente questo è difficile da dimostrare, sono riusciti a percepirli. Il livello della descrizione suggerirebbe di sì, ma per provarlo scientificamente bisognerebbe avere altri strumenti. Certo, si sono comportati in maniera diversa prima e dopo, e questo ti farebbe pensare a una percezione della differenza nello stato della femmina fra quando era viva prima e quando era morta dopo. La cosa interessante di questo episodio è che si riferisce a una femmina adulta, che quindi non è la separazione di una madre che sta allattando un piccolo, il piccolo muore, quindi ha tutta una serie di reazioni fisiologiche a questa mancanza, ma di altri individui che sono vissuti insieme a questa femmina per decine di anni e che in un qualche modo a un dato momento si trovano senza di lei. Questa è una novità di questo studio. Questa è la parte naturalmente importante. Naturalmente, io passerei alla descrizione del secondo, sì, se non rientra, abbiamo tempo. Esatto, che rientra un po' nel caso invece che diceva prima di maternità, in cui appunto un gruppo di scimpanzé, questa volta in natura, quindi non in cattività, esatto, vengono siamo osservati. In Guinea-Conakry e siamo in un posto speciale dove un team di giapponesi studia questa popolazione di scimpanzé da decine e decine d'anni. E in questi casi sono dei piccoli che appunto muoiono, c'è stata una diffusione di una malattia respiratoria che ha ucciso parecchi piccoli e queste madri hanno continuato a trasportare questi corpi, in alcuni casi mummificati, per mesi. Sì, anche qui l'articolo è molto minuzioso, ci sono anche delle foto ed è veramente particolare e veramente toccante. Dunque, di nuovo ci troviamo, mi faccia citare l'autore, sì, il primo, certo, autore di questo articolo, che è Dora Biro, è una ragazza brillantissima e ha osservato e descritto e fatto un film che mi ha straziato il cuore, di nuovo per le immagini fortissime e per la secchezza delle parole usate, per la mancanza totale di esagerazione o di facili momenti di commozione. E Dora Biro e i suoi collaboratori descrivono tutte queste, diciamo, osservazioni di queste madri che trasportavano questi piccoletti mummificati in giro, e mettono anche in luce le tante cose strane che fanno queste femmine rispetto al comportamento normale. Abituale. Per esempio, però è chiaro, come dicevo prima, attaccarsi a un piccolo e continuare a trasportarlo può anche essere frutto, per esempio, proprio dello stato fisiologico dovuto alla maternità, a tutti l'attaccamento che ogni madre mostra per il piccolo, proprio per, diciamo, tutto quell'insieme di ormoni che le circolano nel corpo. Non capiamo. Quindi, se ne renda conto, se capisca che è morto, non lo possiamo, ecco, dire con certezza. Questo è il grande punto di ambedue gli articoli, diciamo. Loro si chiedono, ma queste madri o questi compagni di gruppo capiscono che l'altro è morto? Beh, per una serie di cose la risposta può essere affermativa. Non si comportano certo normalmente verso questo individuo come se fosse vivo, hanno una calma in certe occasioni, l'esplorazione di certe parti del corpo, delle reazioni che non sono uguali a quelle che loro hanno verso un piccolo della stessa età o dello stesso gruppo che è vivo, ma contemporaneamente non lo possiamo chiedere se se ne rendono conto, sanno cos'è la vita o cos'è la morte, è difficile rispondere alla domanda. Certo. È che vedendo questi comportamenti ci vengono molti dubbi e ci viene anche da dire che probabilmente sì, lo capiscono la differenza. Senta, ma che lei sappia, esistono altri animali o altri primati, forse è meglio dire, che manifestano comportamenti di sensibilità così forti? Ma guardi, sicuramente sì, perché per esempio anche i macachi, che sono delle scimmie, diciamo, parecchio lontane dalla specie umana, sono in grado di attaccarsi ai piccoli, di trasportarli una volta morti e di portarseli a spasso come se diciamo ci fosse un fortissimo attaccamento, una forte risposta alla morte del piccolo. Però di nuovo queste cose noi le possiamo benissimo interpretare come frutto dell'insieme complesso stato fisiologico della madre rispetto al piccolo, che provoca comunque un attaccamento. Quindi è un fenomeno che si trova, pensiamo anche, non so, ai cani che rispondono ai padroni morti e gli stanno vicini da morti, hanno veramente un'idea che il padrone è morto oppure stanno soltanto continuando ad essere attaccati al loro padrone, così come sono stati per tutta la vita. E quando il padrone non è più a casa ed è sparito da casa, sono tristi e sono strani, perché in un qualche modo avevano una routine con il padrone che poi si è interrotta in maniera brusca, o sono veramente in grado di pensare al mio padrone morto, eccetera. Beh, io, diciamo, come scienziata propendo verso la prima ipotesi, cioè che sia il cambiamento drastico di abitudini a portare a una serie di malesseri che il cane mostra. Però naturalmente, diciamo, la scienza può trovare dei modi per analizzare per questo problema e per dare delle risposte che non sono basate sul mio buon senso, ma su qualche cosa di più oggettivo. E questo è sicuramente augurabile, non è facile comunque da fare. Tra l'altro sembrano comportamenti innati, del tutto naturali, cioè ce li hanno sia in questo caso gli scimpanzé che abbiamo visto vivere in cattività e quelli anche in natura, nella foresta. Esatto, anche se per quelli che vivono in condizioni naturali si tratta, come dire, di queste reazioni verso piccoli che sono probabilmente più facili da spiegare con meccanismi fisiologici semplici rispetto al senso di lutto, di mancanza che potrebbero mostrare verso individui più adulti. Ciò nonostante esistono altre descrizioni, per esempio che riguardano il parco di Tai, gli scimpanzé del parco di Tai o di altre località in Africa, che suggerirebbero che anche verso gli adulti gli scimpanzé hanno una risposta verso la morte di adulti del loro gruppo che è abbastanza simile a quello che noi poi osserviamo in alcune culture umane. La cosa anche interessante è che ci sono differenze culturali nelle reazioni alla morte, cioè non tutti gli scimpanzé nelle varie posti dove sono stati studiati reagiscono nello stesso modo. Come gli esseri umani, mi viene da dire. Esattamente, come gli esseri umani, ma tolto le parole di bocca. Quindi anche lì probabilmente quello che uno vede fare ai propri compagni influenza poi il modo in cui a sua volta si comporterà in circostanze, diciamo, analoghe. Diciamo, grazie a Dio non possiamo intervenire provocando le morti delle scimpanzé per vedere l'effetto che fa, e quindi dobbiamo avere pazienza e accumulare sistematicamente dei dati per rispondere a queste domande così difficili. Ma io sono sicura che, tra l'altro, anche grazie all'effetto di questi due articoli che sono rimbombati in giro sui giornali in maniera anche abbastanza banale, in molte cose che ho letto e analisi un po' esagerate, però diciamo smuovono il terreno e sicuramente apriranno una nuova fase, un nuovo studio, una nuova fase di studio più oggettivo del fenomeno. Va bene, grazie dottoressa, le auguro buon lavoro. Io starei qui a parlare per ore, ma purtroppo il tempo va è questo. Va bene, ma avremo la prossima occasione presto. D'accordo, grazie, buon arrivederci, lavoro. Arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vivere di voce, beh, che la voce serva per vivere, questo è fondamentale, anche se intendiamo vivere nel senso di lavorare, di avere bisogno della voce per la propria attività, beh, insomma, certo, io in questo momento ne sono la dimostrazione più evidente. Vivere di voce però è anche il titolo di un libro, L'arte della manutenzione della voce, per chi parla, recita e canta. Silvia Magnani ne è l'autrice, che io saluto, è ospite da noi questa sera. Buonasera Magnani. Buonasera. Silvia Magnani, allora, lei ha una serie singolare di competenze. Intanto lei è medico e opera nel campo della foniatria, che è quindi quell'attività di cura e educazione della voce, però lei ha anche un'attività di consulenza stabile a chi ha bisogno della voce come strumento per la propria attività professionale, in particolare gli attori ai quali lei fa delle consulenze, poi ne parleremo attentamente, e mi pare che lei abbia anche un diploma della Civica Scuola d'Arte Drammatica di Milano, no? Se non sbaglio. Sì, ho un vecchissimo diploma di quando ancora la scuola non aveva una divisione tra i registi e gli animatori teatrali. Esisteva un corso animatori che io ho fatto e un corso attori e io ho fatto una formazione registica. Va bene, mettiamo insieme allora queste due competenze e partiamo appunto da alcune cose che in questo libro edito da Franco Angeli lei tratta, che io ho trovato piuttosto interessante, ed è questo collegamento della voce al corpo globalmente. Sì, è un po' riduttivo pensare che la voce nasca dalla laringe oppure dall'unione tra l'apparato respiratorio e la laringe. Io penso sempre che la voce nasca dal corpo, quindi tutto il corpo collabora alla produzione della voce, da come noi stiamo a terra, da come prendiamo appoggio col pavimento, da come stiamo seduti, fino a come utilizziamo lo sguardo per cercare un orizzonte visivo, come portiamo la testa a ricercare gli oggetti o le persone con le quali stiamo parlando. In che modo la posizione, diciamo, del corpo nella sua globalità può intervenire nel come esce la voce, nel come si produce la voce? Forse la cosa più semplice è farle un esempio. Se io respiro ho bisogno dell'aria, se parlo ho bisogno di una discreta quantità di aria per arrivare a una durata della frase adeguata, soprattutto poi se sono un artista, un attore o un cantante. E allora io riesco ad utilizzare una perfetta respirazione che chiamiamo toraco-diaframmatica soltanto se sono posizionato correttamente nello spazio, quindi se ho il mio peso scaricato sia sull'avampiede che sul retropiede e se sono allineata correttamente. Se per esempio io calzo una scarpa con un tacco troppo alto oppure ho una tendenza semplicemente, anche senza scarpe, a scaricare tutto il mio peso sull'avampiede, io metto in atto un aumento della curvatura lombare. Questo viene compensato da un aumento anche della curvatura cervicale con un cambiamento della posizione della testa che tende ad estendersi e ad andare verso l'alto. Questo facilita quasi in tutti i soggetti la presa aerea di tipo toracico, facendo diventare molto difficile la messa in atto di un automatismo di tipo invece diaframmatico. Quindi a seconda di come io mi posiziono nello spazio posso privilegiare una presa o l'altra. Sì. Se per esempio sono sulla punta dei piedi, sicuramente sto respirando in modo non solo toracico ma alto toracico, perché i polmoni sono paragonabili a delle piramidi. Tutte le volte che io porto la respirazione verso l'alto ventilo la parte più alta della piramide, quindi dal punto di vista dei volumi respiratori ho una quantità di aria che entra e esce molto minore. Quindi in sintesi noi non ce ne accorgiamo, però nel momento in cui parliamo nelle posizioni più diverse questa nostra attività è più o meno affaticata, più o meno facile, no? Sì, ci sono delle condizioni in cui la voce esce senza sforzo, anche senza avere fatto una particolare educazione vocale, delle condizioni in cui invece vocalizzare può essere molto più faticoso per la posizione, per la postura del corpo nello spazio, quindi sia per il tipo di appoggio a terra e anche per la relazione spaziale che esiste tra la testa e le spalle. Quindi tutti quelli che vivono spesso in situazioni nelle quali parlare diventa fondamentale, sarebbe bene che conoscessero queste cose. Ecco, tra costoro indubbiamente ci sono gli attori. Prima di questa intervista ci siamo sentite, lei mi ha raccontato un aspetto molto singolare dell'attività dell'attore, che è quando si trova in condizioni per cui la sceneggiatura, la commedia richiede per esempio una forte alterazione della voce perché bisogna rappresentare una lite, no? Mi sembrava questo esempio molto interessante per spiegare. Noi abbiamo fatto l'esempio di Otello che sta impazzendo di gelosia verso Desdemona, quindi sicuramente un soggetto che in queste condizioni mentali non può avere una voce fisiologica gestita con grande controllo. Ora è evidente che l'attore, per dare a noi l'emozione, e l'emozione che noi riceviamo dall'attore è sempre vera, non può invece in realtà provare emozioni vere, cioè non può davvero andare in collera, davvero provare una grande gelosia. E allo stesso modo non può fare appello alle modalità in cui la sua voce in condizioni reali risponde a questo impatto dell'emozione, perché altrimenti sarebbe sicuramente credibile, ma la prestazione vocale non sarebbe ripetibile a lungo, perché l'uscita attraverso la voce di emozioni particolarmente intense genera comunque uno stress a livello laringeo che poi si paga con una situazione infiammatoria o di affaticamento cronico. Quindi l'attore deve dare a noi l'impressione e l'emozione di una sensazione, di un'emozione interna molto agitante per lui, ma non deve lasciarsi agitare dall'interpretazione, quindi deve imparare a produrre questa emozione in un modo vocalmente sostenibile. Per esempio, se io fossi una stregaccia cattivissima, parlerei in questo modo qua, molto arrabbiata con lei. Sì. Chiaramente questo è un grande costo per la mia laringe, quindi non lo posso riproporre. Allora una delle regole, che sono le regole d'oro per la sopravvivenza della voce, è quello di far fare alle cavità di risonanza quello che non deve fare la laringe. Invece di appoggiare sulla laringe tutto il peso interpretativo di un'emozione come questa, io rilascio le corde vocali e invece metto in atto una maggiore rigidità da parte delle pareti del vocal tract, delle cavità di risonanza, e magari puntualizzo un pochino di più la fonoarticolazione. Per esempio, invece di fare "allora io sono molto arrabbiata con lei", inizierei a parlare in questo modo, dicendo che insomma io sono molto arrabbiata con lei. E questo è meno affaticante, questa seconda versione è meno affaticante. Meno affaticante, anche se la resa percettiva su chi sente non è molto diversa. Quindi l'attore deve, siccome deve arrabbiarsi ogni sera, è bene che impari ad arrabbiarsi in un modo verosimile ma non stressante. Sì, l'attore deve fingere ogni sera, senza falsificarla, un'arrabbiatura, e deve farlo a un costo sostenibile, perché l'attore è un professionista, deve arrivare all'età della pensione, non può arrivarci con una voce malata. Vivere di voce, un libro edito da Franco Angeli e scritto da Silvia Magnani. Grazie Silvia Magnani e buonasera. Grazie a lei, buonasera. Guarda Paola, devo dirtelo sinceramente, mi vengono un po' di dubbi, perché la penultima volta ci hai parlato del rapporto fra bacche di cespuglio con inchiostro per il fotovoltaico, poi il cervello umano un'altra volta e quello dei vermi e quello dei chip dei computer che hanno alcune strutture simili. Adesso ci devi parlare di energia da fango e da liquami, energia elettrica, ma insomma, voglio dire, sono tutte vere queste notizie, eh? Mettiti sì, una mano sul cuore. Sono vere, non me le invento. Facciamo così, ti mando anche qualche link, così le puoi mettere sul sito per chi è interessato ai dettagli. Va bene, allora abbiamo una prova oggettiva. Sì. Allora, energia da fango, dicevo, e anche da liquami. Sì, ecco, più che dal fango e dai liquami, dai microbi contenuti nel fango e nei liquami. C'è un microbo in particolare che si chiama Geobacter, ed è stato scoperto nel 1987 da Derek Lovely della University of Massachusetts, e l'ha scoperto nel fiume Potomac, che è il fiume che attraversa Washington. Che attraversa Washington, sì. e inizialmente ha suscitato interesse per la sua capacità di decontaminare i terreni, perché essenzialmente quello che fa respira ferro e materiali organici, e altri metalli, anche il petrolio, e poi è invece dell'ossigeno. Sì, di questi batteri effettivamente decontaminanti se ne sa, si conosce l'esistenza da tempo, però tu ce ne parli adesso, l'elemento di novità è? Nel 2002 i microbiologi si sono accorti che produce elettricità, poi nel 2005 hanno scoperto il meccanismo e l'anno scorso lo stesso gruppo di ricerca è riuscito a far evolvere un tipo di questi geobatteri, rendendoli 8 volte più efficienti nel produzione di elettricità. Il Times l'ha definita una delle top 50 invenzioni del 2009. Paola, hai qualche elemento più preciso su come funzionano queste bande di batteri? Sì, allora i geobatteri nel corso della loro digestione di materiale organico, che come hai detto tu è contenuto nei fanghi o nelle acque di scarico, per esempio, nel corso della digestione producono anidride carbonica, protoni ed elettroni. Gli elettroni sono quelli che ci interessano perché la corrente elettrica è dovuta al trasporto di elettroni. E questi elettroni, una volta liberati, vengono trasportati dai pili, che sono delle appendici simili a dei peli, 20.000 volte più sottili però di un capello, però sono veramente minuscole. E così abbiamo delle celle a microbi, per analogia con le celle a combustibile. Nel caso delle celle a combustibile, gli elettroni sono ottenuti strappandoli dall'idrogeno ed è un processo dispendioso. Nelle celle a microbe otteniamo gli elettroni liberi direttamente dai microbi. E tra l'altro prendiamo due piccioni con una fava, perché nel frattempo l'acqua viene decontaminata. E certo, è un ciclo perfetto. Sì, e infatti a me interessava molto per le mie prossime vacanze in barca a vela. Ecco, perché sì, cioè questa cosa, siccome si parla di liquami in particolare, mi vengono in mente varie situazioni. Tu hai pensato a questa di un mezzo di trasporto bellissimo, la barca a vela, e beh, certo c'è qualcuno a bordo, no? Sì, c'è qualcuno, si producono molte acque di scarico e l'elettricità è limitata, per cui avere la possibilità di produrla a bordo e allo stesso tempo di purificare l'acqua è molto interessante. Ti dirò, non siamo gli unici ad averci pensato, perché l'ufficio di ricerca navale qui negli Stati Uniti e la NASA stessa hanno investito moltissimi fondi ed energie in queste ricerche, perché è interessante anche per i viaggi spaziali. In tutti quei luoghi dove, in tutte quelle situazioni dove sei un po' isolato. Esatto. Per ora esistono già degli apparecchi che funzionano con queste celle a microbi e sono utilizzati per monitorare la popolazione di tartarughe nel Pacifico. E poi un progetto, diciamo, a breve termine, è un veicolo sottomarino senza equipaggio che per ricaricarsi dovrebbe andare sul fondo, dove c'è il fango. Dove c'è il fango, in questo caso non sono liquami. Ricordiamo, segnaliamo, diciamo, a chi ci ascolta, che poi queste tribù piuttosto numerose di batteri se ne stanno lì localizzate dove tu le metti e continuano a mangiare, riprodursi, insomma, e effettivamente sono un po' analoghe a una pila, perché non bisogna immaginarlo come degli animaletti che vanno da tutte le parti, no? Sono molto... No, certo, non sono liberi di andare dove vogliono, anche perché altrimenti la pila non sarebbe utilizzabile. Ci sono dei bei disegni nei link che ti mando. Va bene Paolo, insomma, sono sempre robe strane, però sono tutte vere e sono anche tremendamente curiose. Ciao Paola! Ciao, alla prossima! Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz che ci chiedeva: i pipistrelli che dormono a testa in giù e poi appunto si addormentano, perché non cadono per terra, visto che la muscolatura quando si dorme è rilassata? Ebbene, la risposta giusta è, cominciamo da quelle che non vanno bene. Le unghie possono essere anche lunghe, ma poi esse sono comunque collegate a una muscolatura che deve tenere la presa e quindi con un muscolo che finirebbe per stirarsi. Per quanto riguarda invece il sonno leggerissimo, non è il caso di prenderlo in considerazione, ammesso che questo sia un problema dei pipistrelli, questo perché costoro vanno anche in letargo e stanno, per certe specie, pensate un po', appesi anche per per 6 mesi, quindi sono leggerissimo, ma insomma comunque per 6 mesi il muscolo ne risentirebbe abbondantemente. La risposta giusta invece è il meccanismo a scatto. Il peso dell'animale attaccato fa arcuare il cosiddetto tendine flessore, che è quel tendine che permette alla zampa di piegarsi, e però facendolo tendere la zampa diventa bloccata come un gancio, proprio grazie anche al peso del pipistrello, e questo gli consente di dormire serenamente. Quanti anni ha il nostro pianeta? 10.000. Non lo sapevi, Federico. Ecco qua, sono molto contento di questo dato. Maurizio Menis, buonasera. Buonasera. E questo dato non è una roba che ci siamo inventati noi, è il risultato di una ricerca molto rigorosa sulla popolazione americana, esatto, Stati Uniti. Esatto. Nel paese leader della tecnologia, il 46% degli americani, di fronte alla domanda: ma secondo lei è vero che la Terra, il pianeta Terra con tutti i suoi abitanti, è stato creato da Dio circa 10.000 anni fa? Non ci trova assolutamente nulla da ridire, nulla. Se fossero 15.000 e non 10.000, il problema sarebbe decisamente minore. Invece sono svariati miliardi di anni, quindi esatto, è un erroraccio proprio spaventoso. Sì, direi proprio di sì. D'altra parte non va molto meglio se voi chiedete agli americani quanto tempo impiega la Terra a fare un giro intorno al Sole. Anche lì circa la metà non sa rispondere. Non sa qui dire non sa dirlo. Un anno. Sì, che un anno, effetti, lo sappiamo da tempo, però non si pronunciano. Non si pronunciano, no, rimangono bloccati di fronte, sì, hanno dubbi. Tu giustamente dicevi, però siamo in un paese in cui invece la scienza, soprattutto negli ultimissimi tempi, ha un ruolo importante, è stato molto rilanciata da Obama, l'ha avuto per tanto tempo. Perché ci sono queste cose? Beh, oddio, molto probabilmente ci sono tanti americani che invece la scienza e la tecnologia la masticano e come, certo. Però su 300 milioni di persone c'è una percentuale amplissima. È un libro che è uscito, è un report, hanno fatto tutte e due, insomma, com'è che è stata la cosa? Questo libro si chiama Unscientific America, quindi l'America non scientifica, fa anche un po' il verso alla nota rivista. Alla no? rivista, sì. È scritto da due personaggi, uno si chiama Chris Mooney ed è un giornalista scientifico, e l'altra invece è una signorina che si chiama Cheryl Krischenbaum, lei è un'oceanografa con un passato da DJ, quindi una che ci sa fare con la comunicazione. Si sono messi insieme e hanno cercato di analizzare in questo libro, che attualmente credo esista solo in inglese, di analizzare che cosa è successo, quindi come si è arrivati a questa situazione, qual è la reazione oggi della comunità scientifica e quale invece dovrebbe essere l'atteggiamento che assume la comunità scientifica per riportare in auge la scienza, ben sapendo che non si tratta di riportarla in auge tout court, cioè gli scienziati devono un po' smetterla di pensare che siccome rispondono a domande fondamentali questo debba per forza interessare a tutti, sì. Ma è importante riuscire a portarla dentro nel dibattito almeno abbastanza da far sì che la scienza insomma contribuisca a prendere le decisioni che contano. Certo, con la presidenza Obama è stato segnalato da tutti, anche da tutte le università scientifiche, c'è stato un vero e grosso rilancio insomma della consulenza scientifica alla presidenza, il che significa un sacco di effetti e di ricadute, certo, sul largo pubblico. C'è stato però, no? Mi pare, in questa analisi del rapporto fra politica e scienza, c'è stato un grande vuoto intermedio, però gli inizi erano molto buoni. Se andiamo indietro di 40-50 anni. Ah, certo, se andiamo indietro di 40-50 anni andava benissimo. Diciamo che gli autori sono abbastanza convinti di una tesi, possiamo anche un po' preannunciarla, perché poi è la loro conclusione, e cioè che la scienza va bene nell'opinione pubblica quando l'opinione pubblica percepisce che è rilevante per la propria vita. Per la propria vita. Il momento forse di massima fortuna, come dire, della scienza negli Stati Uniti, al di là delle metafore di Roosevelt, che già insomma siamo intorno agli anni 40, rappresentava la scienza come la frontiera, la nuova frontiera nella quale lo spirito pionieristico americano avrebbe potuto si rifletteva, esatto, anche risvegliarsi, avere una seconda giovinezza, per così dire, quando la scienza è andata bene, quando la scienza è stata il campo di battaglia su cui si è combattuta la guerra fredda, quindi diciamo dal lancio dello Sputnik e anche prima, insomma, la bomba atomica, fino alla fine della guerra fredda, più o meno alla fine quindi degli anni 80, lì la scienza è stata molto importante, perché tutte le parti, cioè in particolare sia i democratici che i repubblicani, sapevano che su quel dentro. Campo ci si stava giocando sì. la guerra fredda. Ricordiamo che quando lo Sputnik andò in cielo, negli Stati Uniti ci fu uno spavento diffuso. Tragedia. Sì, una vera e propria tragedia, insomma. Certo, perché la paura ovviamente è che come tutto quello che viene spedito in cielo prima o poi viene giù e poteva venire giù con un carico non troppo piacevole. Su misura, apposta. Esatto. Ecco, poi però c'è stato, perché dal punto di vista politico è così la cosa, viene attribuita all'intervallo dato dalle presidenze Reagan e esatto. dai due Bush, no? Lì invece esatto. siamo andati giù. Soprattutto perché proprio i repubblicani dovevano fare i conti con una parte del loro elettorato che invece è quello che noi e anche molti americani definiscono l'America profonda, cioè l'America molto legata ai valori tradizionali, soprattutto religiosi, e soprattutto certe denominazioni religiose, perché negli Stati Uniti non è che tutte le religioni, insomma non c'è una religione dominante come da noi. E in particolare le religioni più appunto fondamentaliste, questo è un termine che viene utilizzato dagli stessi autori del libro, hanno bisogno di interpretare alla lettera i testi sacri, perché senza questa interpretazione letterale non esistono più come denominazioni religiose, diventerebbe qualcos'altro. Sì. E i repubblicani, insomma, finché gli è tornato utile, ovviamente non parliamo di tutti i repubblicani, ma di quelli che insomma giocavano su questo tipo di aspetti, finché è tornato utile, bene. Quando a un certo punto non è stato più necessario a creare consenso o a vincere la guerra contro il nemico comunista, a quel punto insomma hanno cominciato a cambiare idea. Ricordiamo tutti gli ultimi anni di Bush con le polemiche sull'intelligent design, con tutte le difficoltà che ci sono state a parlare anche solo tranquillamente di questi temi. L'ultima presidenza Bush è stata addirittura oggetto con tanto di analisi e dati, quindi è incontrovertibile, di critiche molto pesanti dal mondo della scienza, perché si è capito addirittura che sono stati alterati dei dati in funzione di una tesi certo. politica. Non è una caratteristica, diciamo, americana, però questo fa vedere quanto può essere decisamente, come dire, acuta questa separazione tra scienza e politica, perché certo, insomma, alterare dei dati è una cosa abbastanza pesante. Ed è stato talmente forte il riflesso sulla cultura americana di un periodo di questo genere che, forse tu ricorderai, nel 2008, proprio alla vigilia della campagna elettorale, ci fu un'iniziativa da parte di alcuni scienziati che prende il nome di Science Debate 2008. Insomma, si raccolse la comunità scientifica, mise a punto un elenco di domande, cercò di organizzare uno di quei dibattiti, di quei face to face che vanno tanto di moda in America, tra Obama e McCain. Ebbene, rifiutarono tutti e due. Sì. Anzi, Hillary Clinton e Obama rifiutarono, McCain neanche rispose, perché tutti i politici pensavano che comunque c'era solo da perdere ad affrontare un dibattito pubblico di questo tipo. In fase preelettorale, poi. Esatto. Poi, ancora in fase preelettorale, ma una volta perlomeno decisi quali erano i candidati dei due partiti, Obama rispose ma per iscritto. Rispose costringendo McCain a una rincorsa, tra l'altro un po' affannosa. Le risposte erano anche molto soddisfacenti, ma preferirono andare, diciamo, a tutt'altri incontri in cui magari si discuteva di altri argomenti, spesso anche di stampo religioso, senza nulla togliere all'argomento, perché su quel campo ci si giocava molto, si rischiavano da un lato figuracce, da un lato di fare scontenta una buona parte dell'elettorato, e quindi insomma declinarono. C'è una cosa sulla quale può essere interessante riflettere. Passato questo periodo preelettorale appunto così delicato, ed è questa una cosa piuttosto sorprendente, perché stiamo parlando di un paese nel quale viene prodotta una quantità di scienze e di ricerca è ancora il paese leader. Sì, però certamente parliamo del 46% che ha quelle idee, poi ci sarà un 54% che speriamo sappia che è più di 10.000 anni la vita della Terra. Però ecco, una credo differenza abbastanza interessante con questo periodo viene fuori da questo fatto, cioè durante la guerra fredda, quando tu dicevi c'è stato un momento di alto per quanto riguarda la scienza, però era molto indirizzata su una scienza, molto di più sulla tecnologia, molto di più su tutta quella scienza che aveva a che fare con armamenti e con soprattutto le ricerche spaziali e i famosi missili intercontinentali. Bisogna dire invece che adesso la linea di Obama è piuttosto orizzontale, cioè va in tutte le direzioni. Lui ha fatto anche dei grandi finanziamenti, ha proposto insomma e ottenuto grandi finanziamenti anche in aree come tutte le scienze della vita, come quelle ambientali, anche la scienza di base. Quindi c'è, direi, una svolta piuttosto interessante. Mi pare che al momento non stia ricevendo sassi in testa perché sta facendo questa certo, cosa. No, certo, certo. Ma in realtà, diciamo, questo contesto di guerra fredda è stato più un brodo nel quale la scienza è riuscita a uscire dal mondo degli addetti ai lavori, ma non solo nel settore delle armi o della contesa, semplicemente il pubblico percepiva che la scienza era importante. E quindi rifletteva anche sul resto. Esatto, esatto. Infatti la tesi dei due autori è quella di individuare degli argomenti, delle modalità anche comunicative per far sì che il pubblico ricominci a percepire come rilevante la scienza in quanto tale. Non importa, si possono utilizzare anche un po' di slogan, si possono anche utilizzare alcuni argomenti che fanno da apripista. Quello che bisogna combattere, sostengono gli autori, io devo dire mi trovo molto d'accordo su questo anche un po' guardando all'Italia, non è tanto la cultura antiscientifica, ma è l'anti-intellettualismo. Tu ricordi quel famoso testo di Snow degli anni 50, che in qualche modo confrontava cultura scientifica e cultura umanistica. Ecco, dice, è finito questo tempo, dicono gli autori. Bisogna rendersi conto che il problema non è la cultura umanistica, ma è l'anti-intellettualismo, cioè la tendenza a semplificare, a dire che le cose che in fondo contano sono altre da quelle che si discutono nei salotti. Sono altre rispetto ad altre, qualunque altre siano. Insomma, ecco, il problema è che la cultura non è sola. In parte è anche vero che le cose che si discutono nei salotti sono magari futili, ma il problema è che non si può liquidare l'argomento semplicemente in questo modo. E qui stiamo concludendo sul fatto, la cosa che tu dici è senz'altro assolutamente vera, che insomma stanno passando i secoli, ma questa separazione tra le due culture, le cose che contano, perché a un certo momento si dice che conta solo la scienza, meno frequentemente, nell'altra che invece non serve a niente, sono le altre culture che esistono, insomma questa separazione non è ancora stata. Non è ancora sanata, non è ancora superata. Mi dai il titolo? Unscientific America. Gli autori sono, dicevi? Dicevo, sono Chris Mooney e Cheryl Krischenbaum. Va bene Maurizio, credo che abbiamo detto tutto. Erano i dati sulla scienza in America, la scienza in Italia, lasciamo perdere. Meglio di no. Ciao. Ciao. Abbiamo finito anche questa sera. Pipistrelli, come usare la voce, gioco d'azzardo dei nostri ragazzi, scimpanzé tristi perché la vita è così per tutti e si sa come va a finire. Spero che questo viaggio vi sia piaciuto. Alla prossima settimana e buona serata a tutti e a tutte.